sogno di vederti. Di vederti e di toccarti. Ho già fretta ad infilarmi nel tuo cuore. Voglio entrare nella tua vita. Dimmi a cosa stai pensando. Vedi com'è bella la vita. Anche solo per un momento. Senti amore questa onda che viene e va e ci invade anche l'anima.